e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Eccoci, allora abbiamo già detto tutto su Facebook, sul nostro live, dobbiamo ripetere tutto il pre-puntata, ma lo facciamo sempre volentieri. Allora, abbiamo chiuso la settimana parlando dell'albero di limone. Che è arrivato, cari e cari signori miei. Eccolo, eccoci lì. Qua, è arrivato stamattina, molto carino, me l'ha regalato Nicoletta, naturalmente che a sorpresa si è fatta il giro di tutti i vivai di Milano nel weekend, bello, sotto la pioggia. E quindi è arrivato, vi dirò quanto sopravviverà, perché qua si aprono le scommesse sulle mie doti da pollice verde. Vedrai, scarse. Aspettiamo il limoncello. Mi dà soddisfazione. Tra l'altro avevo postato anche una foto, esatto, della mia pianta che ho sul balcone. Avevo chiesto agli amici di indovinare. C'è chi ha detto un ciliegio, chi una bougainville, un melograno. Invece è un... albicocco! E qua, insomma, tutti potete perfezionare le vostre doti di vivaisti e piantisti e florovivaisti, insomma. Non è la giornata dell'albicocco oggi? No, che cos'è? Ce ne abbiamo un'altra? Sì, allora è la giornata mondiale del teatro. Ma dai! A tutti gli attori, gli aspiranti attori che ci seguono, se vogliono intervenire per recitare un loro pezzo, perché no, una poesia. Guarda, a cuore, sai, Denari. Sai che cosa ti dico? Che io saluto il mio amico Lorenzo degli Innocenzi di Firenze, che è un nostro grandissimo fan, e sentendo questo saluto sono certa che appena finisce la trasmissione mi trovo il messaggio WhatsApp sul telefono. Se vuole invece chiamare, beh, è anche un gran bel ragazzo, te allora, lo dico. Ecco. Se vuole venire qua nella, sì, sede, lo dobbiamo di chiamare. Via Monterosa 91 da a Milano. Firenze, un po' scomodo stamattina, però lo invitiamo per... Comunque, noi siamo qua. Benissimo. Allora, senti un po', io mi occupo come lunedì, così per cominciare con le buone notizie, di lavoro tra poco, e parleremo dell'esperienza di una persona che ha fatto tantissimo parlare di sé qualche anno fa. Adesso si sono spenti i riflettori sul clamore di quella vicenda, ma poi la sua esperienza è andata avanti. Parleremo della storia di Giovanni Cafaro, il primo codista d'Italia, per capire quanti nuovi codisti ha formato, quanto ci è venuto in aiuto anche per le nostre attività quotidiane, e soprattutto se davvero, insomma, queste nuove idee di impresa possono diventare poi un sostituto del, come dire, del lavoro a tempo indeterminato, che è ancora il grande ricercato d'Italia da parte di molte persone. Comunque, cara Deborah, non ci sono più le code, le file di una volta, perché prima in fila ci si intratteneva, si socializzava, si vedeva gente, si facevano cose. Sì. Adesso tutto è cambiato, il nostro vicino di fila manco più lo vediamo, stiamo tutti infilati nel nostro smartphone o inghiottiti dal tablet, un po' come succede in metro e in treno. E allora mi chiedevo quante occasioni perse. Comunque, ogni tanto sarebbe utile, non dico guardarsi negli occhi, ma almeno alzare lo sguardo. Sicuramente la nostra cervicale ci ringrazierebbe. Beh, perché sempre calati con questo naso sullo smartphone, teniamo il peso all'incirca di 27 kg sul nostro collo, il peso di un bambino di 7-8 anni. Ah, quindi senza quelli sarei magrissima. Vedi? Ma anche i nostri occhi potrebbero passarsela meglio. C'è un allarme da occhio secco, e proprio il tablet è una tra le cause più evidenziate. Ne parleremo quindi di vista. Ottimo. Allora intanto io parto, e parto con un'occhiata all'andamento della giornata di borsa. Non è partita granché bene la seduta in Europa questa mattina, anche se adesso abbiamo qualche microscopico segnale di miglioramento. Sono tutti in calo di oltre mezzo punto percentuale gli indici europei, ma in avvio perdevano lo 0,8-0,9, un punto percentuale addirittura. Anche Milano perdeva in partenza lo 0,90%, adesso è a meno 0,6. Indovina chi corre oggi, Nicoletta? Non lo so. Ferrari anche oggi, dopo Mamma il Gran Premio mia. D'Australia. Il titolo naturalmente già aveva avuto dei buoni segnali nelle ultime sedute di settimana scorsa. Oggi riparte bene, più 1,89%. Insieme a Ferrari i titoli con i rialzi più forti: Banca Mediolanum più 0,8, Recordati più 0,5, Telecom più 0,24, mentre un'altra giornata storta per tutti i bancari. Unicredit è il peggiore, meno 1,81, ma i peggiori in assoluto sono Buzzi Unici, MCNH Industrial, che perdono quasi 2,5 punti. Andiamo subito al tema di oggi. Allora, i fedelissimi di Cuore Denari sanno che noi tocchiamo spesso i temi del lavoro, lo facciamo da molteplici punti di vista. Nelle ultime settimane con Nicoletta ci siamo appassionate particolarmente al chi cerca non trova. Aziende con posizioni aperte, a caccia di profili introvabili, e dall'altra parte abbiamo uomini e donne di ogni età a caccia invece del lavoro che non trovano. È un match difficilissimo in un mercato del lavoro, quello italiano, che lo sappiamo è anche una giungla normativa in continuo cambiamento, una circostanza che rende la vita difficile a tutti gli attori del sistema. L'ultimo esempio, la cancellazione delle norme sui voucher e il lavoro accessorio, appunto, ci racconta molto in questo senso. Oggi torniamo sul lavoro, ma facendolo ancora una volta da un punto di vista diverso, quello dell'esperienza di chi ha fatto molto parlare di sé circa 3 anni fa per l'originale lavoro in cui ha deciso di cimentarsi, non per passione o un talento particolare, ma proprio perché, essendo rimasto improvvisamente privo di un'occupazione, se ne è dovuto inventare una di sana pianta e forse è capitato a molti di voi. In coda per conto degli altri. È così che Giovanni Cafaro, salernitano emigrato a Milano, 42 anni e una laurea in scienze della comunicazione, ha approfittato del suo temporaneo stato di disoccupazione per inventarsi un nuovo lavoro. Aveva fatto di necessità virtù. Perso il lavoro, Giovanni Cafaro si era inventato un mestiere, quello di fare la coda al posto degli altri. Un successo internazionale tanto da occuparsi di lui persino il Financial Times. Restiamo a Milano, fare la fila al posto degli altri, serietà e pazienza, queste le doti richieste nel primo corso per codisti. Allora, di sicuro con tutta la strada che fa, l'attività fisica e il movimento non gli mancano, Nicoletta, quindi sarei contenta di salutarlo. Sì, gli molto. Uffici pubblici, ne parlavamo prima davanti alla macchinetta del caffè, anche a Milano non hanno più segreti per lui se si chiude, una sede storica di un ente pubblico. Lui sa benissimo immediatamente, in tempi rapidi, dov'è la sede nuova. Signori, vi presentiamo Giovanni Cafaro, professione codista. Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Sono un po' indecisa se dargli del lei, perché ormai siamo diventati amici con Giovanni. No, e quindi possiamo facciamo del tu. Benissimo. Anche in coda capita di darci di darsi del tu dopo. Anche, no? Sì, sì. Allora, io convoco anche i nostri ascoltatori, Nicoletta, all'800 24 00 24 e chiediamo oggi ai nostri amici che ci seguono da casa se hanno visto nascere negli anni della crisi lavori inediti o mestieri singolari del tutto nuovi o riscoperti. Raccontateci, siete stati voi stessi a inventarli o praticarli? Giovanni, la tua è una storia davvero emblematica, un esempio di coraggio, intraprendenza, spirito di iniziativa, anche nel modo che hai avuto di farti appunto conoscere. Qualche cosa nei pezzi dei telegiornali andati in onda qualche anno fa, appunto, lo abbiamo sentito. Nato e vissuto a Salerno, residente a Milano ormai da una quindicina d'anni, ti sei laureato a Salerno in scienza della comunicazione, poi insomma un lavoro importante, master alla Bocconi, una multinazionale che ti lascia a casa perché dice bye bye, noi ce ne andiamo all'estero, e da lì un po' il vuoto. Ce la ripeti un po' questa storia che hai raccontato tante volte, però da 3 anni non la sentiamo, dopodiché andiamo al tuo lavoro oggi. Sì, infatti dopo la mia vicenda personale chiaramente non mi sono perso d'animo e ho cercato ovviamente di trovare una soluzione che non fosse quella normale della solita trafila dei curriculum dei colloqui di lavoro. E una mattina... Non ne avevi mandati per niente una volta rimasto... Ho mandato circa 500. Ah, ecco. Sì, ho fatto anche 10 colloqui, ma poi chiaramente la cosa non si era concretizzata. E una mattina, mentre ero in coda in posta per pagare dei miei bollettini personali, mi si accese questa lampadina e pensai, perché non fare la coda per gli altri, visto che è una cosa che a nessuno sostanzialmente piace. E quindi la cosa mi piaceva molto, ovviamente era anche un'esigenza quotidiana, e quindi ho detto, beh, perché no, assolutamente. Sono partito con questa mia idea. E certo. Allora, ti si è accesa la lampadina in posta, ma poi concretamente come ti sei messo all'opera? Perché noi, siccome amiamo molto i risvolti concreti delle storie, anche quelle più belle, folcloristiche, ma in realtà raccontaci da lì come è diventata poi un'impresa, perché so che immediatamente hai dovuto fare il piccolo investimento di stamparti un sacco di volantini per farti conoscere. Sì, assolutamente. Infatti ho stampato circa 5.000 volantini, spendendo chiaramente pochissimo, e poi ho iniziato a distribuirli personalmente per le strade di Milano, quindi ovviamente proponendomi come codista, a cui avevo dato questo nome, e quindi ho iniziato a farmi conoscere. Alcuni pensavano fosse uno scherzo, altri invece ovviamente hanno poi iniziato a contattarmi chiedendomi appunto di fare le prime code nei vari uffici. Esatto. Nessuno scherzo, perché non solo Giovanni si è inventato questa professione, ora fa corsi di formazione, ha brevettato la sua idea creativa, ha negoziato per portare a casa il primo contratto nazionale di lavoro che è nato, appunto, è stato firmato nell'ottobre del 2014, ne abbiamo anche una copia, fra un po' vi racconteremo i dettagli, quali sono anche i livelli di retribuzione previsti. Ci sono diverse categorie anche professionali, si va dal codista che ha le mansioni basilari a quello che ha invece un ruolo un po' più come dirigenziale, adesso ne parleremo. Intanto subito il traffico, poi andiamo ancora più nel merito della storia del codista d'Italia. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Cuore e denari. Gli anni della crisi e della mancanza del lavoro sono stati anche quelli della scoperta delle nuove professioni. Non vanno confuse con le professioni del futuro, quelle per intenderci che di solito hanno un nome in inglese e appartengono inevitabilmente all'universo digitale, e nemmeno con l'esercito delle start-up, miniere di idee e innovazione. Ci sono veri e propri mestieri, spesso inediti e singolari, altre volte antichi e riscoperti. Tornano i tuttofare, maestri nei lavoretti domestici di ogni tipo, e ci sarebbero anche gli scaldaletto professionali, assunti da catene di hotel internazionali per far sì che i clienti trovino il giaciglio alla temperatura giusta. Ci sono i pet sitter, che si prendono cura di cani, gatti e non solo, e ci sarebbe anche chi viene pagato, dai marchi più rinomati, per assaggiare il cibo degli amici a quattro zampe. C'è chi cerca, per altri, un partner online, chi crea alibi, chi riconosce il sesso dei pulcini, chi viene assoldato per inventare scuse. L'elenco potrebbe essere ancora lungo, e per alcuni di questi mestieri non è chiaro dove finisca la leggenda metropolitana e inizi la realtà. Ce n'è uno, made in Italy, sul quale però non possiamo dubitare, ed è il nostro codista, retribuito per aspettare il turno in uffici e sportelli, e oggi regolato da un contratto nazionale. Per sua vocazione, non potevamo che lasciarlo in coda anche nel nostro elenco. Giovanni Cafaro, il primo codista d'Italia. Guarda che bel finale anche per la nostra scheda, appunto, in cui parliamo di te, Giovanni. Allora, bellissimo. Ci siamo lasciati prima dell'interruzione per il traffico, al punto della firma del primo contratto nazionale di lavoro nel 2014. Chi erano le parti in causa? Chi sono oggi le parti in causa? Perché ovviamente in ogni contrattazione, per quello che riguarda la formazione e la stipula di un contratto nazionale di lavoro, c'è l'ente che dei datori di lavoro, c'è il sindacato, insomma, in questo caso quali sono gli interlocutori? Sì, ovviamente mi sono affidato a un sindacato nazionale perché non potevo depositare io il contratto al CNEL, quindi CONFAEL, CONFIE, ovviamente sono le sigle sindacali che poi mi hanno supportato. Rappresentative di quali lavoratori? Beh, allora hanno diversi tipi di, diciamo, di lavoratori, dalle guardie forestali, insomma, tutta una serie di, diciamo, di categorie, di categorie che non hanno appositi, sì, diciamo sindacati, esatto, di rappresentanza. Assolutamente. Quanti sono oggi i codisti d'Italia? Beh, allora, i codisti d'Italia sono circa 500 da nord a sud, e quindi chiaramente la maggior parte ovviamente però lavorano come codisti liberi professionisti, poi ci sono anche alcuni che sono stati assunti come codisti dipendenti con il contratto. Certo, senti, ma quando sei partito, ovviamente lo hai fatto in primo luogo per te, non immaginando forse che potessi dar vita ad un, tra virgolette, movimento così così nutrito, no? Insomma, così vario ed eterogeneo, perché addirittura oltre alle partite IVA ci sono anche i codisti che vengono assunti dalle aziende solo per fare questo lavoro. E insomma, hai risolto anche tanti problemi per le società, per le compagnie. Sì, e tra l'altro è un'opportunità che si può tradurre sia a tempo determinato, per qualche ora, per un giorno, per una settimana, per un mese, ma si può trasformare anche in un'assunzione a tempo indeterminato. Quindi è un contratto a chiamata che permette ovviamente di risolvere anche velocissimamente il problema dell'assunzione, quindi andando anche a sostituire ovviamente quello che era un po' la tipologia dei voucher, perché non c'è nessuna possibilità di essere assunto chiaramente in nero, perché c'è un inizio e una fine. Assolutamente. So che infatti proprio in virtù di questa peculiarità ti piacerebbe magari avere una chiacchierata con il ministro del lavoro Poletti o con il presidente dell'INPS Boeri per proporre le tue idee, no? Questo contratto potrebbe anche dare degli spunti per sostituire i voucher che sono stati cancellati qualche giorno fa. Assolutamente sì, io ho proposto il contratto, io ho scritto, e quindi magari mi piacerebbe approfondire. Tra l'altro, questo contratto con delle piccole modifiche può essere utilizzato anche per altre categorie di lavoratori, sempre ovviamente a chiamata. È uno strumento che c'è già, è a disposizione di tutti ed è gratuito, quindi potrebbe essere ovviamente una soluzione. Quali sono i capisaldi di questo contratto? Beh, sicuramente diciamo la possibilità di velocizzare le assunzioni all'interno di dei vari datori di lavoro, che possono essere aziende, professionisti, ma anche privati, così come succede anche per le badanti, ma ovviamente anche enti pubblici. Quindi io volevo realizzare un contratto snello che potesse in pochissimo tempo favorire la chiamata di un codista e quindi sviluppare l'opportunità di lavoro. È molto veloce, una volta che è stato firmato il contratto parte anche per qualche ora o per una giornata. Sono a pagina 16, che è la mia preferita, l'ho già visto prima. Il contratto è quello che prevede le mansioni e i dettagli di livello. Ci sono tre livelli possibili di codista: quello che esegue delle mansioni basilari, il codista impiegato e il codista professionista e consulente aziendale. Che cosa fa questo terzo codista? Beh, sicuramente io ho previsto tre livelli proprio per partire da un livello più base, dove magari i codisti all'inizio hanno meno esperienza, per poi arrivare a delle vere e proprie consulenze all'interno della pubblica amministrazione, perché molto spesso oltre ovviamente a fare la coda, bisogna ovviamente risolvere la problematica che ci è stata affidata, e ovviamente bisogna parlare anche con i funzionari, con i dirigenti di quell'ente pubblico. Quindi sicuramente avere una professionalità e un'esperienza ovviamente aiuta. Senti, devi adesso darti da fare per andare a curiosare nel mondo quello che succede a livello internazionale, perché c'è Emanuela che ci scrive che a Santo Domingo questa figura esiste da decenni, si chiamano i buscones, fanno per te code, ti reperiscono documenti e quant'altro. Lo sapevi? No, non lo sapevo, l'ho intuito. No, perché a questo punto tu fai un po' il sindacato, il movimento internazionale, potresti farti adesso, a parte insomma il sorriso che c'è dietro le nostre considerazioni, però in realtà fate veramente comodo. No? Assolutamente. Risolviamo tutta una serie di esigenze, di compiti, facciamo risparmiare del tempo. È ovviamente un lavoro basato sulla fiducia, quindi, perché si entra a contatto con informazioni molto spesso riservate, ovviamente. Ecco, esatto, è anche delicato. Sì. Senti, la tua prima coda per chi è stata? La mia prima coda è stata... Quella a livello professionale, sì. Dopo che ti eri cimentato a stampare 5.000 volantini, sì, di cui raccontavamo prima. Me la ricordo, è stata l'Agenzia delle Entrate di Milano. Sono stato circa 3 ore in coda per un imprenditore di Milano, che tra l'altro è ancora mio cliente, che mi contattò, e chiaramente ho iniziato così, insomma. Quindi è stata... Anche una bellissima. Bella prova di fiducia per te, no? Sì, assolutamente. Non aveva nessuno che faceva le code all'Agenzia delle Entrate per lui, questo imprenditore, o la segretaria non ci voleva più andare? Aveva la segretaria, cioè penso tuttora la segretaria, ma ovviamente non voleva mandarla in ufficio. Certo, stare 3 ore lì. Esatto, certo. Distoglierla da altri compiti impiegatizi o comunque lavorativi. Stefania ci scrive: ragazze, anch'io sono una codista e autonoleggio con conducente, ma tutto gratis, lo faccio per mamma e suocera. Bello sarebbe farlo per diventare un lavoro. Ma infatti, Stefania, ci provi. Esatto, allora andiamo un po' ai quanto adesso sono le 54, sì, ancora un paio di minuti di tempo ce l'abbiamo, poi dopo abbiamo il giornale radio, la seconda parte della trasmissione, Giovanni. Allora, per chi si volesse candidare a fare questo lavoro, intanto la serietà è il primo biglietto da visita con cui presentarsi da sé, perché nonostante tutto il folklore, dicevamo, che ha accompagnato il tuo debutto nel mondo di questa professione, appunto oggi si fa con grande serietà. 500 persone che sul territorio nazionale fanno le code appunto per gli altri. Che doti sono necessarie, appunto, oltre alla sacrosanta pazienza dello stare in coda tutto il giorno? Poi però comunque credo che entro le 8 ore la giornata di lavoro si esaurisca, oppure ci sono delle code da fare anche in tarda serata per qualcuno? No, raramente. Tendenzialmente le code si fanno al mattino, in qualche caso anche al pomeriggio, perché ovviamente gli enti pubblici, la maggior parte delle code sono al mattino. Sicuramente le doti sono appunto quelle della calma, della pazienza, ma anche la volontà di imparare comunque un nuovo lavoro, che chiaramente non è impossibile, ma sicuramente non si può improvvisare. Bisogna ovviamente conoscere come relazionarsi ovviamente all'interno della pubblica amministrazione, quindi chiaramente, e ovviamente anche qualche trucchetto per snellire le cose. Ma ormai tu sarai molto riconosciuto anche tra gli enti pubblici di Milano. Sì, assolutamente, mi riconosco, addirittura ti fanno saltare la coda? Qualche volta me l'hanno proposto, veramente? Ma ovviamente mi tu sono hai detto, rifiutato. No, il codista... Ma integerrimo, assolutamente. Non era corretto ovviamente per gli altri utenti, ma soprattutto ovviamente io guadagno sulla coda, quindi sono chiaramente 10 euro di coda effettiva, quindi sicuramente. Bravo, esatto. Hai già detto la cifra magica sulla quale torneremo nella seconda parte della trasmissione. Adesso è tempo di sentire il giornale radio, ma intanto, per tutte le curiosità sul codista, 800 24 00 20. State ascoltando un programma offerto da... Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort è Saint-Gobain. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora qualche minuto di tempo stamattina con Giovanni Cafare, nostro primo codista d'Italia, ma ormai apripista di un movimento molto folto. Ormai siete in oltre 500 in tutta Italia, tutti regolarmente formati con i tuoi corsi di formazione, Giovanni. E adesso andrei subito alle domande dei nostri ascoltatori, perché naturalmente a noi piace essere molto pratiche con Nicoletta, e quindi 800 24 00 24, spazio agli amici che ci seguono da casa con le loro curiosità. Ti sottopongo la domanda di Antonio da Matera. Antonio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ero incuriosito e volevo chiedere alcune cose al vostro ospite. Sì, vada. Oltre, cioè, dovrà dotarsi di una delega da parte del committente. Certo. Poi chiede, cioè discute solo il problema per cui ha avuto la delega, o ha bisogno di alcune autorizzazioni, se sono previste, per poi ritirare i documenti, ritirare i documenti e tutto. Grazie, sì, grazie Antonio. Allora, naturalmente ci sono documenti e documenti da ritirare. Ci raccontava Giovanni a microfoni spenti che è capitato pure di dover andare a comprare dei libri banalmente in libreria, e lì immagino che la delega non sia necessaria, solo forse un anticipo del denaro necessario, Giovanni. Per questioni più complesse, invece, per documentazioni delicate, che cosa ti deve rilasciare il committente? Sì, e normalmente appunto mi lascia la delega, che mi permette ovviamente di sia di chiedere informazioni, ma soprattutto anche di consegnare o ritirare i documenti, ovviamente quello è indispensabile. Oltre alla coda, molto spesso si gestisce anche la pratica all'interno degli enti pubblici. Ecco, e da lì, e questo è un aspetto importante, perché naturalmente magari tu vai a ritirare un documento e immagini che ne so, andando presto alla posta, in un'ora risolvi la faccenda. Se invece di ore ce ne vogliono tre, e poi naturalmente tu sei pagato in base all'impegno orario che è necessario per soddisfare appunto questo problema, e come fai a dimostrare che per risolvere quella questione hai avuto bisogno di tutto questo tempo, e quindi invece di un'ora magari che immaginava il committente ti deve pagare per tre ore spese presso l'ufficio dove sei andato? Allora, normalmente appunto si rilascia poi una fattura, una ricevuta fiscale, e poi chiaramente non c'è un modo per dimostrare il tempo in cui si sta in coda. Tendenzialmente appunto è un qualcosa che non è possibile, però è chiaro, si va sulla fiducia. Normalmente i miei clienti si fidano, quindi non c'è stato mai una situazione che ha permesso di dubitare. Quindi questo è anche l'aspetto positivo di questa attività, quindi sicuramente insomma, per il futuro sicuramente è ancora stimolante. C'è mai stato qualcuno che ti ha contestato? Dice, ma io non ci credo che sei stato in quell'ufficio tutto questo tempo. Per no, fortuna, della verità no. Anche perché tu non è che c'hai tutta questa voglia di stare negli uffici pubblici tutte queste ore. Una volta mi è capitato, c'era un cliente che voleva sapere esattamente quanto avrebbe speso, quindi il tempo che io avrei dedicato a quella coda. Io ho detto, guardi, non glielo posso dimostrare perché non so a priori se domani mattina in quell'ufficio starò un'ora, due ore. Chiaramente ho rifiutato, quindi non ho accettato. Si può mandare una foto. Esatto, della coda che c'è. Oggi risolviamo anche con quello, infatti. Vedi. E poi quando entri e quando esci. Alla domanda come e quanto viene pagato il codista, Giovanni, come rispondiamo? Lo abbiamo già detto, intanto c'è una tariffa oraria stabilita contrattualmente. Sì, sono 10 euro all'ora e chiaramente questa è la tariffa. Poi chiaramente se il codista entra alle 9 in quell'ufficio ed esce alle 12 sono 30 euro, quindi chiaramente questa è, diciamo, la tariffa basata proprio sulle code effettive. Ed è la stessa retribuzione che si deve riconoscere, sia che tu ritiri un documento, quindi l'impegno, sia che tu debba interagire magari con il funzionario. Assolutamente, io questa tariffa è standard, anche per quanto riguarda il contratto sono 10 euro, così come per i voucher lorde, di cui net sono 7,50 euro, perché 2,50 euro vengono versati dal datore di lavoro all'INPS e all'INAIL. Indipendentemente dal tipo di coda, ovviamente la tariffa è sempre quella, ovviamente dal tipo di compito, quindi sicuramente questa è una tariffa standard. Ovviamente io sono contento di fare questa attività perché le code le adoro e quindi certo, la coda è la tua vita. Giovanni, ci sono delle donne che fanno questo lavoro? lavoro? Ce ne sono tante? Sì, tendenzialmente siamo al 50% di donne e di uomini. Sì, adesso ecco. Perché avevo aperto il contratto di lavoro a pagina 26 dove ho letto apprendistato e maternità, quindi anche apprendisti codisti abbiamo? Assolutamente, è previsto e c'è anche poi ovviamente la possibilità, una volta fatto l'apprendistato, di comunque essere confermati e nel contratto ovviamente sono garantiti tutti i diritti e doveri per i codisti che riguardano anche tutti gli altri contratti. Certo. Senti, a parte le partite IVA, andiamo invece alle regole per stabilire un rapporto di lavoro con un committente fisso. In questo caso quali sono i diritti e i doveri appunto che si hanno reciprocamente? Vedo a pagina 26 sempre i riposi giornalieri a cui il codista ha diritto, per esempio. Questo immagino che sia un aspetto da negoziare con un datore di lavoro più o meno stabile o fisso. Sì, esatto. Ovviamente se il contratto ha una durata superiore a un certo periodo di tempo, ovviamente in quel caso c'è il riconoscimento delle ferie, dei permessi retribuiti, dei giorni di malattia, quindi chiaramente diventa sicuramente un'attività a tempo pieno con tutti ovviamente i riconoscimenti e i diritti sia del codista ma ovviamente anche del datore di lavoro. Certo, senti, ma nei tuoi corsi di formazione che cosa insegni? Cosa è necessario che sappia un potenziale, un provetto codista? Sicuramente il 90% dell'attività si svolge all'interno della pubblica amministrazione ed è importante sapere come relazionarsi, perché è un mondo, ovviamente ogni ente pubblico ha le sue regole, i suoi diciamo paletti, quindi chiaramente bisogna sapere come rapportarsi, quali sono ovviamente le informazioni anche da ottenere. È sicuramente un'attività dove io metto a disposizione la mia esperienza in 3 anni di code, dove ovviamente ne ho viste di cotte e di crude, quindi sicuramente è un lavoro dove si fa sicuramente spesso a tempo pieno ma anche a volte part time ovviamente, quindi diciamo do tutta una serie di elementi che permettono ovviamente al codista di poter essere pronto per partire, per potersi orientare proprio anche sì. Soprattutto nella giungla degli enti pubblici, ma ce lo dicevamo appunto a microfoni spenti, non è solamente l'ente pubblico quello che tu frequenti per conto di imprese o famiglie, perché le richieste sono veramente di ogni tipologia, bisogna fare code in ogni istante appunto della nostra settimana, ce ne capitano tante. Quali sono quelle più originali in assoluto, Giovanni? Allora, più originali, quella che ha durato anche di più di tutte, sono stato 8 ore in coda per acquistare, quindi... No, dillo tranquillamente, perché tanto di persone che ne fanno per comprarsi l'ultimo dispositivo tecnologico ce ne sono, e esatto. Quindi ti è toccata anche quella. Esatto, lo smartphone di ultima generazione, quindi chiaramente l'ho fatto con piacere. Sì, 8 ore mi sono ovviamente allontanato soltanto per andare a fare dei bisogni, ma ovviamente poi sono tornato perché con le persone in coda ovviamente ormai ci si conosceva, e quella è stata la più lunga. Poi mi sono capitate anche altri tipi di code, quindi sono stato anche diciamo in alcuni diciamo attività commerciali o centri commerciali per acquistare diciamo anche l'ultimo libro della persona, sì, con dedica, esatto, con dedica, firma copie, quindi ho fatto anche la coda per i biglietti alla Scala. Mi è capitato anche di andare a accompagnare delle persone al banco di pegni, quindi farmi la coda loro per impegnare ovviamente dei beni, insomma sicuramente ce n'è di ogni. Senti, Ugo ci chiede: puoi accumulare più clienti contemporanei nella stessa coda? Se tu domani mattina vai all'agenzia delle entrate, vai ad Equitalia o all'INPS, immagino che magari per 10 persone diverse tu debba ritirare un documento, che ne so, in questo periodo il CUD, no? Rilasciato per esempio dall'INPS per i pensionati. In questo caso, ecco, come ti regoli anche per essere pagato, retribuito? Sì, è l'ideale, il caso ottimale è appunto andare a fare una coda per 3 o 4 clienti, in questo caso in un unico ente. Mi sembra anche comunque sicuramente, però ragionevole che tu razionalizzi. Sì, sì, è la situazione migliore, ma chiaramente c'è un limite al numero di pratiche che puoi comunque svolgere, quindi devi poi ritornare, riprendere il numero e rifare un'altra coda. Diciamo che con l'esperienza raffini anche un po' questo aspetto, immagino, del tuo lavoro. Sì, assolutamente. Giovanni, fra un po' noi dobbiamo salutarti. Un'ultima domanda sul tema dei disabili, perché so che è un filone sul quale stai lavorando, al quale ti stai interessando, in che modo? Sì, allora sono venuto a contatto anche con questo mondo che è sicuramente molto particolare, e quindi a breve partiranno anche i miei corsi di formazione per codisti disabili, in modo da dare anche loro un'opportunità di lavoro. Sono stato colpito dal fatto che alcuni disabili mi hanno chiesto di poter avere questa opportunità, e ovviamente coloro che hanno delle disabilità che permettono chiaramente di affrontare questa attività, e quindi sono contento di poter dare anche a loro questa opportunità, di mettere a disposizione la mia esperienza, e quindi sicuramente è stata una sorpresa, non mi aspettavo questa richiesta, questo entusiasmo. Certo, come probabilmente qualche anno fa non ti aspettavi tutto questo clamore attorno a te e anche tutto l'interesse attorno a questa professione, che ancora qualcuno guarda con un po' di sorriso, invece noi la guardiamo appunto con grande interesse, come ho detto a Giovanni quando l'ho conosciuto, tanto di cappello per quello che hai fatto, perché vorrei vedere una persona che si rialza con questa velocità, si rimbocca le maniche, da un'intuizione, da una fila imposta, invece riesce a creare in realtà un contratto collettivo nazionale di lavoro. Come la vedi la tua professione domani, negli anni futuri, Giovanni? Ma io cosa vorresti fare? Sicuramente questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Mi piace poter dare un segnale positivo e una speranza a tante persone che purtroppo come me sono in una situazione in cui perdono il lavoro, e questo chiaramente mi riempie di gioia e di orgoglio. E poi vorrei, il mio sogno è quello che un domani in ogni azienda, in ogni posto di lavoro, in ogni famiglia ci sia un codista di fiducia, certo, che possa risolvere per le i cose. Tuoi corsi di formazione troviamo sul tuo sito, Giovanni, sì, Caffaro, esatto. Codista, com'è che si chiama? Non me lo ricordo. www.giovannicaffarocodista.it. Benissimo, ottimo. Senti, file per andare a ritirare qualche esame medico, risultati, test, perché ce l'ho avuto uno e non ho fatto, sono andata a ritirarli tipo 6 mesi dopo. La prossima volta ci mando Giovanni. Sì, assolutamente, ecco. Mi è capitato, c'è la possibilità, tra l'altro sono anche andato da alcuni medici di famiglia a ritirare le ricette per delle persone anziane, quindi chiaramente eccoci, infatti, vedi, un uomo alla cuore denari. Ti ho dato un buon assist molto per la prossima parte. E infatti ci ha visto lungo, perché avrà successo sicuramente. Noi I di chi vede Buscone lungo parliamo oggi con un grande esperto che è tornato a trovarci, il dottor Lucio Buratto, direttore scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico. Buongiorno dottore. Buongiorno, eccola Nicoletta. Qui gli sistemiamo subito anche il microfono, perché probabilmente perché gliel'ho girato io, non ero stata girato, esatto, devo perfezionarmi io come microfonista di Radio 24, dottor microfonista codista. Dottor Buratto, parlavamo di code e di file e riflettevamo sul fatto che non ci sono più le file di una volta, proprio perché anche quando siamo in fila, e magari Giovanni può confermarcelo, siamo tutti infilati dentro il nostro smartphone. E leggevo quanto questa abitudine, questo collo in avanti, pesi sulla nostra cervicale, ma c'è di più, c'è dell'altro, perché anche i nostri occhi si stressano. Con i device noi non ammicchiamo gli occhi, e questa è una delle cause dell'occhio secco. L'OMS dice che c'è una sorta di epidemia, colpisce anche i bambini. Dottor Buratto, partiamo da qui, dai nostri occhi che si arrossano, prudono, lacrimano, abbiamo questa sensazione di corpo estraneo, a volte è un corredo di sintomi molto fastidioso. Sappiamo che le lacrime sono molto utili, è una sorta di barriera che difende il nostro occhio, ma io dicevo ai nostri ascoltatori, nel lanciare il tema, sarà colpa dello smartphone, della primavera o delle primavere? Perché questo è un po' il tema su cui ci confronteremo oggi insieme al nostro esperto. Dottor Buratto. Diciamo che entrano in gioco tutte e tre. Sicuramente l'uso smoderato che si sta facendo di dispositivi tipo smartphone, eccetera, porta a problemi visivi, porta a problemi di vario genere, per la verità. Cervicale, come dicevi tu, Nicoletta, porta problemi di affaticamento visivo, perché comunque questi strumenti vengono portati molto vicino agli occhi, per cui l'occhio deve accomodare molto e quindi si stanca. E soprattutto c'è anche un problema di apertura palpebrale, cioè quando uno guarda davanti con la testa in posizione normale, l'apertura palpebrale è X. Quando uno china la testa per guardare qualcosa in basso, l'apertura palpebrale aumenta, e quindi c'è anche un'aumentata evaporazione delle lacrime. Poi se uno è concentrato, come dicevi, nell'impegno di esaminare quello che sta facendo, gli occhi, le palpebre sbattono con minor frequenza, e quindi la lacrimazione viene stimolata di meno e la lacrima viene distribuita di meno sulla cornea. Ma non è solo un problema di lacrimazione. Il problema è che la lacrima fa vedere bene, cioè se non c'è una bella lacrima l'occhio non vede bene, e quindi la lacrima, oltre che nutrire, lavare, pulire, disinfettare eccetera, è un sistema visivo molto importante, è un dispositivo visivo molto importante. Le nostre nonne dicevano che a piangere venivano gli occhi belli, sicuramente il cuore veniva affaticato perché erano lacrime d'amore, ma i nostri occhi se ne avvantaggiavano, quindi le lacrime fanno, sono nutrimento e al tempo stesso barriera. Poi adesso c'è senz'altro la stagione della primavera che porta alle allergie, quindi porta a tutti una serie di disturbi di altro genere, però c'è una differenza sostanziale. Mentre i disturbi che compaiono adesso sono disturbi stagionali, tipicamente stagionali, che quindi compaiono quando cominciano a esserci i fiori nelle piante, quando comincia a esserci un certo tipo di temperature di aria, il problema dell'occhio secco invece è un problema costante che c'è durante tutto l'arco dell'anno. Ma dottor Buratto, mi scusi, parliamo di occhio secco e quindi parliamo di prurito, di rossore, di lacrimazione, ma tutti questi sintomi sono insieme o per arrivare a definire il problema ne basta uno? Ad esempio una lacrimazione eccessiva oppure questa sensazione di corpo estraneo, un po' come quando ci viene la congiuntivite, noi sa che ci facciamo diagnosi? Sabbia nell'occhio, beh, sarà la congiuntivite. Ma diciamo che varia molto in funzione della gravità del problema, se vogliamo, perché quando uno ha una riduzione della funzione lacrimale, il disturbo è minimo, magari il disturbo compare soprattutto quando c'è molta aria condizionata, quando c'è un ambiente secco, quando si beve poco, eccetera. Quando invece la patologia si è, diciamo, più avanzata, si è più conclamata, allora i disturbi sono molto più frequenti e sono anche più importanti. Si arriva addirittura a problemi visivi importanti, cattivo umore, depressione, cambio del sistema, diciamo, della qualità di vita della persona. Poi ovviamente tutto questo si aggiunge anche il problema dell'età, che è un fattore che riduce la lacrimazione, che riduce anche il benessere oculare. Ecco, parleremo anche di età, per questo vi chiedevo, è la primavera o le primavere? Perché con le primavere la nostra vista cambia. Dottor Buratto, oggi parleremo di presbiopia, che non è una malattia. Non è una malattia. È un regalo degli anni. È un regalo degli anni. E la nostra pelle si segna e anche i nostri occhi accomodano in modo differente. Per questo è un po' quello che diciamo, il disturbo che ci impone per leggere un po' di allungare le braccia. Le braccia non riusciamo ad allungarle, quindi bisogna inforcare gli occhiali. Ma intanto, dottor Buratto, prima di parlare di presbiopia per capire come affrontarla, e poi ci sono delle differenze perché magari va a sommarsi invece a dei difetti refrattivi, diamo delle indicazioni per tutti coloro che si ritrovano descritti nel problema dell'occhio secco, e quindi rossore, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo. Quali sono le attenzioni e le precauzioni, e soprattutto quali sono i consigli per evitare di trascurare il problema, che può poi diventare più serio? Dunque, nella vita quotidiana bisogna intanto imparare a bere di più, tenere gli ambienti dove viviamo un po' più umidi, cercare di capire che gli occhi sono importanti, la lacrima pure, e quindi farli riposare. C'è il cosiddetto 20-20-20 all'americana, quando si sta per esempio al computer, usarli per 20 minuti, poi fare 20 secondi di pausa e poi guardare a distanza di alcuni metri per riposare l'occhio. Poi bisogna evitare le creme sul viso, evitare tutti il trucco, per esempio. Le creme così diventiamo incartapecorite, il trucco che così sembriamo degli zombie. Girarci intorno all'occhio, bisogna girarci intorno all'occhio un po'. Poi ci sono le terapie, tutte le terapie, non so, i beta bloccanti, gli antidepressivi. Il farmaco in Italia più venduto, sono gli antidepressivi, che sono anche causa frequente di occhio secco. Poi ci sono tutti gli squilibri ormonali dovuti alla gravidanza o alla menopausa, questo, quest'altro e quell'altro, che giocano il loro fattore negativo. E ci sono tante altre situazioni che inducono a questa problematica, che sta diventando un vero e proprio problema, specialmente negli ambienti dove c'è aria secca che circola, perché noi adesso viviamo in un'epoca in cui dobbiamo risparmiare energia, quindi teniamo tutto come tutto in un acquario, tutto chiuso, e quindi c'è poca circolazione di aria. Dottor Buratto, lacrime artificiali o collirio per risolvere il problema? Quello è il primo stadio, diciamo, però non risolve il problema. La lacrima fa il suo effetto, bagna l'occhio, quando ha finito di bagnarlo l'occhio torna secco, quindi bisogna cercare di stimolare la produzione di lacrime facendo opportune terapie. Per esempio, una cosa molto semplice è fare semplicemente anche degli impacchi caldi alla sera, e questi facilitano lo scioglimento, se così posso dire, della parte grassa della lacrima, che quindi esercita meglio la sua funzione. Poi ci sono altre tecniche di stimolazione della produzione delle lacrime, tipo la luce pulsata, tipo un lipid flow che fa una specie di massaggio meccanico e termico contemporaneamente, oppure si può andare a riaprire meccanicamente, fisicamente, le singole ghiandoline che si sono ostruite. Insomma, c'è tutta una serie di accorgimenti che si possono fare, ma quello che è importante è un po' la prevenzione, se così posso dire. Cioè, bisogna che le persone imparino a usare bene i loro occhi, perché gli occhi sono veramente molto importanti in quelle che sono tutte le attività quotidiane, certo, che noi svolgiamo. Ricordate la regola del 20-20-20, ma adesso ci sono i mercati che questa regola immagina. Fammi vedere, c'è qualche 20 da qualche parte, non c'è niente, ci sono prestazioni negative un po' più importanti. Colpa del dollaro stamattina, sai che ti dico? Dai, allora. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. A incontrarti fra cent'anni. No, la incontriamo prima, altro che a cent'anni, intorno ai 40, Eccola lì che arriva la presbiopia, un fenomeno naturale, non è una malattia. Ne stiamo parlando oggi con il dottor Lucio Buratto, che è qua in studio con noi. Dottor Buratto, dopo l'occhio secco, su cui torneremo perché sono arrivati tantissimi messaggi, segno che è un problema, come dice l'OMS, molto diffuso, andiamo a un problema che è legato non alla primavera, ma ahimè alle primavere. Meno male che ci sono, perché così ci siamo anche noi. Dottor Buratto, presbiopia, e quindi molte persone che hanno sempre così letto e fatto tutte le attività senza occhiali si trovano costrette ad inforcare gli occhiali proprio perché la vista cambia. Sì, l'occhio perde un po', diciamo, di elasticità, per cui... Come buono lei! Per cui quello che prima si leggeva a 30 centimetri, poi si porta a 40, poi a 50, e poi bisogna mettere gli occhiali. Perché le braccia non sono più sufficienti. Per bisogna farsi imprestare le braccia del codista. I fantastici quattro, no? C'era l'uomo elastico. quella sarebbe un'idea. Vedi, certo, un'altra professione. E allora ingrandire i caratteri, ingrandire i caratteri di quello che si legge, quello che si fa anche oggi effettivamente, poi con il computer o con i dispositivi smartphone, che si aumenta il carattere, diciamo, di lettura, proprio per far finta di non aver bisogno degli occhiali. Sì, ci sono delle persone che non vogliono rassegnarsi a quest'idea. Cioè, io ho delle amiche che dicono: ma poi tu ti metti gli occhiali? Dico sì, perché non vedo. Ma allora vuol dire che denunci che sei presbite? Dico, ma non è solamente il segno dell'occhiale che ti fa vedere che non sei più ventenne, Comunque, vabbè. Così tanti bei modelli, tra l'altro. Viene percepito male questa cosa qui dall'uso degli occhiali che diventano obbligatori dopo una certa età. Veramente ci sono molte persone che vengono a farsi operare proprio per questo, perché non vogliono avere la sensazione di invecchiare, e questo occhiale è uno dei primi segni. Ci sono delle persone che sono fisicamente splendide, molto attive dal punto di vista fisico, sportivo, eccetera eccetera, e l'idea di portare degli occhiali per lettura che segnala alla gente, agli altri, che loro hanno superato una certa età, i 40, perché poi inizia dai 40 e poi cresce. 40 è uno scherzetto, dice lei. Diciamo, il problema vero compare dopo il 44, 45, 46, quando si comincia a far fatica veramente a leggere. Poi dipende anche da tante altre situazioni, vedere se una persona prima era mio, poi era ispermetro, poi era stigmatica, se doveva già portare gli occhiali oppure no. Diciamo, non è proprio una cosa, diciamo così, semplice e chiara. Ecco, ma la presbiopia presenta anche altri sintomi, altri piccoli disagi che non vanno trascurati, dottor Buratto. Sì, l'occhio si stanca, l'occhio si affatica dopo un po' che uno legge in condizioni sfavorevoli, diciamo, specialmente di sera, dopo una giornata lunga magari di lavoro. L'occhio si stanca, può venire mal di testa, diventa rosso, dà fastidio, uno ha voglia di chiudere, ha voglia di smettere, ha voglia di fare qualche cos'altro, però magari deve fare un certo lavoro, quindi deve andare avanti e quindi diventa un disagio anche generale. Si possono verificare anche disturbi come aloni, sdoppiamento delle lettere, i nostri ascoltatori ritornano sulla relazione con le mosche volanti, questo disturbo, questi vermicelli, pallini, moschine che ogni tanto passano davanti al nostro schermo naturale? No, quelle diciamo che sono cause diverse. La distorsione dell'immagine è più facile che sia dovuta a un inizio di cataratta oppure a un inizio di maculopatia, un altro problema grosso che interessa soprattutto le persone oltre i 60 anni. Quella dei corpi mobili e delle mosche volanti invece interessa un'altra struttura dell'occhio, cioè la parte più centrale, quella più liquida, diciamo che nella giovinezza è abbastanza robusta, abbastanza solida, abbastanza densa, poi pian piano si scioglie, si liquefà e quindi liquefandosi si muove qualcosa all'interno e si formano delle piccole opacità che muovendosi appunto danno fastidio, sono abbastanza fastidiose, molta gente diciamo ne soffre molto, anche queste in certe situazioni non sempre si riescono a trattare facendo delle procedure laser che sciolgono proprio questi corpi mobili all'interno dell'occhio. È abbastanza semplice farlo, non richiede grosse cose. Ho visto che ti stavi pizzicando l'occhio. Sì, adesso, perché mi prude sai, che sarà effetto quell'angolino. Vabbè, là. Quell'angolo lì. Comunque Pierpaolo ci scrive che per quello che gli riguarda le donne con gli occhiali sono molto sexy. Quindi è come dargli Antonio, torto, buongiorno da Milano e subito dopo Giuseppe da Piacenza. Antonio, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione. Niente, io sarò brevissimo. La mia domanda è questa. Io sono un odontotecnico e quindi ho bisogno alcune volte di lavorare con degli ingranditori. Volevo sapere se c'è qualche tipo di particolare attenzione nel momento in cui sono un po' stanco la sera perché mi ingrandisco molto e quindi faccio un po' fatica a vedere. Da lontano vedo benissimo, da vicino purtroppo, ahimè, l'età c'è e quindi questa presbidia. Antonio! Quanti anni ha lei, scusi? 56. 55. Beh, quindi... Non se le aggiunga, teniamo quelli che abbiamo. No, ma farà due giorni di compio. Auguri allora! Dai, parte il libro per Antonio. Ah sì? Dai. Antonio, allora no, mi scusi, dottor Buratto. Beh, in piena presbiopia a quest'età, quindi ci vuole senz'altro un aiuto. Se si riesce a lavorare con gli ingranditori senza, dipende poi che tipo di ingranditori. Per esempio, ci sono i microscopi che hanno degli oculari che si possono adattare, possono essere modificati in modo da superare questo problema. Se invece l'ingranditore non ha queste possibilità, o bisogna portare gli occhiali sopra l'ingranditore o prima dell'ingranditore, oppure bisogna fare delle pause di riposo se uno non riesce a fare a meno diciamo di usarli questi strumenti. Anche in sala operatoria si usano gli ingranditori, dottor Buratto? Noi siamo più fortunati. Per lavorare su delle strutture così piccole come quelle... Noi abbiamo dei microscopi che sono stupendi, dei gioielli veramente di tecnologia che ci consentono di ingrandire le dimensioni di quello che vediamo, ci consentono, se noi stessi abbiamo dei difetti, di modificare l'oculare in modo da compensare il difetto. Abbiamo luci stupende che ci consentono di illuminare quello che vogliamo, abbiamo modo di cambiare l'angolazione delle luci in modo da evidenziare certe strutture piuttosto che altre. Nella chirurgia oculare veramente il microscopio è uno strumento che è assolutamente indispensabile oggi, senza non riusciremo più a fare nulla, ormai siamo talmente abituati a lavorare così bene con questi strumenti che non... Così abbiamo fatto un saltino anche in sala operatoria, perché no? E invece andiamo a Piacenza perché andiamo. C'è Giuseppe, buongiorno, e poi Anna Monza Brianza. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, senta, io ho 56 anni, a sì. Differenza del signore di prima, io vedo, non vedo niente appena mi sveglio, praticamente proprio, e poi dopo un'oretta che mi sono svegliato, riesco a leggere tutto quello che posso. Succede praticamente che non riesco a vedere proprio niente appena mi sveglio, e con più mi si stanca la vista e con meglio vedo. Voglio dire, è un bene sforzarla, è un male. Io non vorrei portare gli occhiali, perché ci vedo bene poi durante il giorno. Ma dunque, verosimilmente il primo momento di difficoltà è dovuto proprio al fatto che c'è l'occhio asciutto durante la notte, l'occhio spesso si asciuga molto e al mattino c'è proprio questo disagio a aprire gli occhi e a cominciare la giornata visiva. L'occhio deve, come dire, stimolare la produzione di lacrime che poi migliorano la qualità. È un po' come le nostre articolazioni, al mattino sono un po' arrugginite, abbiamo dolore, poi ci muoviamo, riscaldamento. Quindi è un problema di occhio secco. Il nostro amico da Piacenza ne prende due temi con uno. Eh sì, perché poi il fatto che lui veda bene da vicino senza occhiali vuol dire che comunque è un pochino miope o sarà un inizio di cataratta. Quindi probabilmente vede meno bene da lontano, quindi un paio di occhiali comunque a quest'età per forza deve portarlo, per lontano o per vicino o intermedio, non riesce a vedere senza, a meno che non sia stato operato di presbiopia, allora è un altro discorso. Però lui, ho capito che vuole resistere. Allora, per il suo problema, che è anche quello di molti di noi, sì, cioè al mattino avere un po' l'occhio che ti dà, sembra un po', no, ancora, che necessita di carburare, un po' come le articolazioni. Lei ha detto un problema di occhio secco, perché di notte poi non ammicchiamo, per cui al mattino il problema ritorna. È meglio mettere delle lacrime artificiali prima di andare a dormire per aiutare, sì, l'occhio? Potrebbe essere un'indicazione per il nostro amico? Diciamo che in questi casi qui di solito si mette un gel prima di dormire, c'è una lacrima artificiale molto densa che, diciamo, rimane anche a lungo nell'occhio, e poi al mattino uno dei primi gesti da fare è mettere un'altra goccia di questo prodotto che aiuta a lubrificare, a rimettere, diciamo, i pistoni, se così posso dire, del nostro motore in funzione. Allora, c'è un po' la leggenda metropolitana che a resistere la presbiopia venga in qualche modo allontanata, cioè se noi abituiamo il nostro occhio ai primi disagi a mettere gli occhiali, la presbiopia abbiamo l'impressione che galoppi, invece resistere l'occhio fa una sorta di ginnastica e quindi si abitua. Qual è la verità, dottor Buratto? No, diciamo che non si riesce a rinviare purtroppo la presbiopia. Quello che si può fare però nei primi stadi, per esempio, stimolare l'attività muscolare o facendo proprio degli esercizi che la persona può fare per conto suo, allontanando, avvicinando, per esempio, questo è uno molto semplice, in modo da attivare la muscolatura che porta all'accomodazione. Oppure ci sono dei trattamenti proprio che noi possiamo fare, una specie di stimolazione elettrica, come quando si va a fare ginnastica con questi dispositivi che stimolano la muscolatura per un'attività elettrica. Così c'è anche una cosa che funziona per l'occhio. Si mette una corrente elettrica. Allora, aspetti che me la spiega bene, perché adesso abbiamo le informazioni sul traffico e poi andiamo, sì, a questa sorta di ginnastica passiva. Sì, possiamo, esatto, dire così. Esatto. Andiamo. Faircam Air & Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi. Allora, occhi, occhi, occhi, 800 24 00 24, in studio con noi il dottor Lucio Buratto, direttore scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico. Abbiamo iniziato a parlare di occhio secco per capire se erano la primavera o le primavere. A proposito di primavera, stiamo affrontando il problema, che problema, insomma, è la presbiopia, un regalo degli anni. Ci sono delle attenzioni, delle precauzioni, delle indicazioni che si possono seguire. Il dottor Buratto ci parlava di una sorta di stimolazione, una sorta di ginnastica passiva che viene suggerita nelle fasi iniziali, dottore, della presbiopia? Diciamo che oltre all'esercizio, diciamo, che la persona può fare per conto suo, c'è un dispositivo molto semplice che serve soprattutto per la presbiopia iniziale, comunque fra i 40 e i 47, 48 anni, per stimolare l'attività, diciamo, accomodativa dell'occhio, stimolare l'attività muscolare, quella che porta alla messa a fuoco lontano e vicino. Si fanno delle sedute con uno stimolatore che si appoggia vicino all'occhio, e si fanno 3-4 sedute diciamo, l'occhio riacquista un po' di accomodazione, per cui riesce a ritardare l'uso dell'occhiale di 4, 5, 6 anni. Ovviamente non impedisce l'insorgere della presbiopia, perché gli anni poi continuano ad andare avanti, purtroppo, e quindi anche, diciamo, questi piccoli deficit della attività accomodativa dell'occhio continuano a progredire. Per quanto riguarda invece il trattamento, si può correggere con un intervento? A che punto siete, dottor Buratto? Ma... perché sull'intervento della presbiopia è da tempo che se ne parla, poi pareri favorevoli, sfavorevoli, indicazioni, aggiustamenti. Diciamo che ci sono delle ottime tecniche. Quello che bisogna fare è scegliere bene l'indicazione, cioè il caso, e parlare bene con il paziente. Per esempio, se una persona è miope, si può, con un intervento di miopia, fare in modo che lui, questa persona, possa vedere anche da vicino oltre che da lontano. Una supervista, insomma. Sì. Beh, no, non è una supervista, diciamo che è una compensazione della presbiopia. E se la persona è un po' più avanti con gli anni, invece ci sono altri interventi, perché questi primi di cui parlavo prima sono interventi che si fanno con il laser. Lo stesso discorso vale per l'astigmatismo, per l'ipermetropia. Si può correggere questi difetti e contemporaneamente, quando la persona ha più di 40 anni, pensare anche di sistemare la presbiopia. Se la persona invece è più avanti o ha la cataratta, quest'altro problema si risolve con un intervento che utilizza delle lenti intraoculari multifocali, cioè i cosiddetti cristallini multifocali, che nelle ultime generazioni di questi due anni ultimi funzionano, devo dire, molto bene, danno molta soddisfazione alle persone, si riesce a ottenere una buona vista da lontano, una buona vista per il computer e anche una buona vista per la lettura, quindi, diciamo, eliminare molto dei problemi di chi ha necessità di portare gli occhiali sia per lontano che per vicino. Quindi vedi che non tutto il male viene per nuocere, speriamo arrivi. Anna, buongiorno da Monza Brianza. Vedi che bellezza, anche le primavere ci regalano l'occasione di, con un intervento, di risolvere un sacco di problemi. Anna. Grazie, buongiorno. La mia domanda era la seguente: dato che ho avuto una cataratta da cortisone a 49 anni, sono stata operata 10 giorni fa, mi è stato prescritto comunque un altro cortisone, un colliere a base di cortisone, si chiama Netildex. È indispensabile? Posso ridurre un po'? Sì, perché Anna è già stata scottata. Intanto ci racconta di questo, non abbiamo tanti minuti, ma possiamo anche affrontare questo aspetto. Una cataratta da cortisone, quindi? Sì, vuol dire che la signora o ha messo del cortisone a livello oculare in gocce per un periodo lungo, era per una terapia diversa, per un ernia al disco. Esatto, oppure ha fatto delle terapie cortisoniche sistemiche, devono essere terapie che proseguono per almeno per alcuni mesi prima di indurre una cataratta, delle volte addirittura anni. Questo succede per chi ha delle patologie che richiedono dei trattamenti cortisonici molto, molto prolungati nel tempo. La cataratta al cortisone è una cosa che conosciamo bene. Nel dopo intervento per forza occorre del cortisone, ma tanto la cataratta ormai è già stata tolta, quindi... Ma questo cortisone di solito viene dato per 8-10 giorni dopo l'intervento, poi basta, anche perché il cortisone a lungo andare, oltre che la cataratta, che lei ha già operato, può indurre il glaucoma, per cui bisogna stare un po' attenti nell'uso di questi farmaci, che sono ottimi farmaci, ma che vanno usati per tempi e per indicazioni ben precise. Allora, tornando, vogliamo dare un'indicazione per chi si confronta con tutto quel corredo di sintomi che chiaramente è riferito all'opacizzazione della lente, di questa lente naturale che è dentro i nostri occhi, il cristallino. Le cause possono essere non solamente gli anni che passano, ma anche dei traumi oculari, dei difetti ereditari, malattie sistemiche, anche come il diabete, dottor Buratto. Il diabete è una delle principali cause di cataratta. Sì. E quindi abbiamo questa visione un po' offuscata o doppio, un'ipersensibilità alla luce e anche all'abbagliamento, e anche una percezione meno vivida dei colori. Dottor Buratto, un tempo si diceva la cataratta si opera quando è matura, adesso invece tendete proprio ad operarla nelle fasi iniziali? La operiamo precocemente, innanzitutto perché l'intervento è più semplice, ma anche perché le persone hanno bisogno di vedere adesso per la guida, per il lavoro, per le attività quotidiane, quindi non accettano più di attendere, soffrire, vedere male, avere disturbi, avere vista offuscata, non avere una percezione delle distanze, perché poi c'è una dimostrazione chiara e limpida che operare precocemente la cataratta riduce molto i traumi, gli incidenti stradali e aumenta la sicurezza delle persone, quindi specialmente la persona anziana che è già magari un po' insicura nel movimento, che magari ci sente già un pochino poco e che fa fatica a vedere bene, corre il rischio purtroppo di avere degli incidenti, certo, di farsi male, avere fratture eccetera eccetera. Quindi oltre che impedire di avere una buona vista per usufruirne di tutte le bellezze, diciamo, che la nostra vita quotidiana ci può offrire, c'è anche il problema della sicurezza personale che non va trascurato. Allora, da Terni un ascoltatore vorrebbe il suo parere, dottor Buratto, sugli occhiali che si trovano nei bar e nei supermercati o anche nelle farmacie. Sono gli occhiali usa e getta per la presbiopia. Ci piacciono? Possiamo utilizzarli? Poi rischiamo qualcosa? Chi non può farlo? Diciamo che se lei è in viaggio e che ha dimenticato a casa i suoi occhiali, li può comprare e va bene per quelle poche ore. Il problema di questi occhiali è che hanno sempre lenti uguali nei due occhi, e non è detto che i nostri due occhi siano uguali, non correggono l'astigmatismo, non correggono altre imperfezioni, per cui sono occhiali così che possono servire giusto di emergenza, ecco, nient'altro. Allora, è ancora una domanda sugli occhiali di Leonardo, coi forellini, aiutano? Eh sì, ce ne sono anche qua. Sì, dottor Buratto, abbiamo parlato di ginnastica, ma questi... Sì, qualche cosina possono fare nell'aiutare gli occhi a vedere, sì, anche per la presbiopia, perché stimolano l'accomodazione. Noi li usiamo, per esempio, anche per focalizzare meglio, se la pupilla è dilatata, per esempio, la persona vede meno bene, se la pupilla è stretta vede meglio. Quando noi vogliamo far vedere bene una persona, per esempio mettiamo una lente con un forellino al centro e questa persona riesce a vedere più di quello che normalmente vede, e ci serve per capire, per esempio, se la funzionalità della retina è buona o altre cose. Quindi promossi, questi sono promossi, sì, gli occhiali con i forellini. Adesso dobbiamo prenderli anche noi. Allora, non abbiamo lo spazio per rispondere ad Andrea da Milano, che ha fatto un intervento laser per miopia e ci chiedeva come può procedere, com'è il post-operatorio. Ci può scrivere Andrea, perché il dottor Buratto tornerà. Parleremo di chirurgia refrattiva, quindi miopi e parentame vario. Quando vuoi, Nicoletta. Ci aspetto un'altra puntata, intanto vi saluto, io domani non ci sarò. Bene, io ci sono, invece parlerò tra le altre cose, oltre dei temi di cuore che ovviamente indegnamente commenterò al posto di Nicoletta, parlerò di welfare aziendale, cosa fanno tutte quelle aziende per così un po' aiutare i dipendenti ad avere un ambiente di lavoro più sereno magari. A tra poco, sì, forse a tra poco anche con la borsa comunque. Buona giornata. Domani sicuramente, buona giornata a tutti.